Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso venerdì 25 novembre sono stati consegnati i premi Innovazione Amica dell'Ambiente, un riconoscimento nazionale rivolto alle imprese che fanno qualcosa insomma di intelligente in campo ambientale. Il premio ideato da Lega Ambiente è giunto quest'anno all'undicesima edizione. 4 le categorie: energia, agricoltura, abitare e mobilità, e 7 le aziende premiate quest'anno. Ce ne parla Andrea Poggio, che è vice direttore generale di Lega Ambiente. Buonasera Poggio. Buonasera a tutti. Iniziamo dalla casa. È stata premiata Filca Cooperative per un condominio a Clusone, in provincia di Bergamo, che sta per essere abitato proprio in questi giorni, perché è un edificio in classe A+, cioè non soltanto estremamente risparmioso per come è stato costruito, ma anche che ricorre completamente per il residuo di impianto di riscaldamento attivo esclusivamente a fonti rinnovabili. È un edificio passivo praticamente. È un edificio passivo con in più un ricorso completo alle rinnovabili anche per i consumi della famiglia all'interno. Poi siamo sempre nel campo dell'energia, il recupero dal moto ondoso, un progetto presentato da Boito Mario che si chiama Giant. La cosa interessante è che viene fatto per piccole onde, cioè un sistema di recupero dell'energia dalle onde persino nei canali della laguna di Venezia. Ecco, ricordiamo che per esempio altri progetti sulle onde molto più grandi riguardano, non so, il mare del nord, mentre noi per esempio nel Mediterraneo non abbiamo queste grandi onde, quindi ci vogliono proprio delle tecnologie tarate appositamente, no? E qui è una vera e propria scommessa: se diventa un progetto modulabile, scalabile, può interessare a chi? Ebbene, un altro dei candidati che è stato premiato al nostro premio, che è Enel Green Power. In questo caso si tratta di una pala eolica di nuovo disegno, ci ha lavorato, pensate, lo studio Renzo Piano, pensato come pala di piccola taglia, siamo sull'ordine di grandezza dell'energia di 50 kW, anche per eventi non di grande entità, quindi pensate per come è fatta l'Italia, certo, per pale che possono essere ospitate anche nella conurbazione urbana. È un oggetto nel quale, se non sbaglio, c'è una grande cura anche per l'aspetto estetico, e sappiamo che in Italia di questi problemi con l'eolico ci sono, no? Insomma, conciliare paesaggio ed energia eolica. Infatti, è sempre per tenere un filo logico, FAM è un'impresa italiana di medie dimensioni che lavora nell'accumulo dell'energia elettrica, batteria per intenderci. Sì. In questo caso batterie agli ioni di litio, estremamente performanti, quindi in grado di perdere pochissima energia per tenerla e conservarla per quando invece le reti elettriche sono carenti di energia. Quindi qui avete premiato l'efficienza di questa batteria sostanzialmente. L'efficienza e, se vogliamo, anche un po' di Made in Italy che si difende, certo, e guarda al futuro, al smart grid, alle reti intelligenti. Passiamo di palla in fresca, Pininfarina sì. Voi vi aspettereste chissà che cosa che ha macchina turbo, e invece no, in questo caso abbiamo voluto premiare il nuovo indirizzo di ricerca di Pininfarina verso la mobilità sostenibile, in questo caso un progetto per prendere vecchi autobus, rifarli e farli diventare ibridi elettrico-diesel. È una cosa eccezionale perché l'idea di avere un rilancio del trasporto pubblico con tecnologie innovative e un bel disegno ci è sembrata un'idea formidabile. Passiamo all'agricoltura. Sì? Molinia. Il riso per definizione è sempre stato una delle coltivazioni a maggior impatto ambientale. Certo, grande consumo d'acqua. Tanta chimica, tanta energia nei trattamenti successivi. Ebbene, in questo caso un'azienda in provincia di Biella che da un lato ha recuperato le tecniche agrarie antiche, dall'altro lato si è inventato, ha costruito le nuove macchine per riuscire a produrre il riso, ovviamente senza le mondine, senza il grande lavoro che c'era una volta, e sta esportando queste tecnologie a basso impatto ambientale, a basso consumo consumo energetico, basso consumo d'acqua e di chimica un po' in tutto il mondo, segno di una vitalità inesperata in questo settore di impresa, così come da COP Centrale Adriatica l'impegno con tecniche di marketing nuove a cercare di affermare all'interno delle catene della grande distribuzione i prodotti chilometro zero, insomma una conversione importante che viene persino dalla grande distribuzione. E tra l'altro proprio da questo settore, quello dell'agricoltura, mi pare di aver capito che sono arrivate moltissime proposte, no? Voi avete avuto 160 partecipanti e molti venivano dall'agricoltura. Sì, anche tra i segnalati dal Consorzio Casalasco alla società, o una delle cantine di Salchetto, che è una cantina totalmente carbon neutral e via di questo passo. La cosa interessante dell'innovazione nel corso di questi 11 anni che finalmente sono cose raccontabili. Noi all'inizio avevamo difficoltà a spiegare come le forme di gestione aziendali riuscivano ad avere un impatto basso sull'ambiente. Io il giorno dopo andavo al supermercato e non sapevo cosa comprare. Oggi le innovazioni stanno permeando la nostra vita. E si stanno anche imparando a comunicare, no? Un po' di più probabilmente. Di fondo, qual è stato il criterio che avete adottato, no? Perché per esempio premiare l'autobus di Pininfarina e non la Twizy, che insomma è molto innovativa come concezione di automobile elettrica biposto in linea? Ma l'idea di avere delle innovazioni che possono avere un impatto molto significativo sulla nostra vita, non soltanto per fabbisogni di nicchia, e che siano già pronte all'uso. Grazie Andrea Poggio. Grazie a tutti voi. È tutto, a domani.